Thank you. Thank you. Ich bin nicht mehr Non è vero, è stato facile, ma è stato fatto. E dipende da un attimo.